Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buonasera cari amiche e cari amici, con il caotico e sorprendente caucus dell'Iowa si è avviata ufficialmente la campagna elettorale americana. Per chi voglia fare un bel ripasso sulla storia della presidenza USA, sul funzionamento delle istituzioni e sulle modalità delle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, segnalo un libro indispensabile di cui è autore un grande esperto degli Stati Uniti, noto anche per la sua estrema precisione fino al minimo dettaglio, Mauro Della Porta Raffo, autore di USA 2020, tracce storico politica istituzionale, pubblicato da Edizioni Ares, 468 pagine, 20 euro. Un libro che è innanzitutto una sintesi molto precisa e dettagliata, naturalmente, della storia politica americana, dei suoi partiti, delle istituzioni, dei presidenti, dei mancati presidenti e del sistema, forse appunto abbastanza misterioso, dei grandi elettori che formalmente poi eleggeranno il presidente degli Stati Uniti il primo lunedì dopo il secondo mercoledì del mese di dicembre degli anni elettorali. E troveremo qui anche un'analisi del voto stato per stato, che è fondamentale per cogliere il cambiamento degli equilibri elettorali e dunque prevedere anche o immaginare i risultati possibili che avremo in autunno. Chiudono il libro gli utili elenchi dei 45 presidenti americani, dei loro 48 vicepresidenti, di cui 9 diventarono presidenti in sostituzione del presidente eletto e 5 furono eletti essi stessi presidenti. Quindi l'elenco dei presidenti, dei vicepresidenti, dei grandi elettori, nel 20 saranno 538, e dei candidati alle nomination dei vari partiti, dei due partiti nelle scorse edizioni delle elezioni. Se Mauro Della Porta Raffo ci fa capire come si vota negli Stati Uniti, un altro libro ci presenta gli Stati Uniti che andranno a votare. È di un giornalista esperto di Stati Uniti, Francesco Costa, che cura nel newsletter un podcast da costa a costa sugli Stati Uniti, e che ha scritto Questa è l'America, pubblicato da Mondadori, 204 pagine, 18 euro. Costa ci presenta qui un quadro degli Stati Uniti inatteso e spiazzante. Nel primo capitolo, per esempio, ci spiega l'impatto devastante che ha avuto la diffusione degli antidolorifici. E ci porta poi in plaghe che certo i turisti non battono frequentemente, per esempio il Nevada al di fuori da Las Vegas, dove potremo capire meglio uno dei tratti più caratteristici della cultura americana, ossia la diffidenza nei confronti del governo. Insomma, fatti e luoghi apparentemente isolati e spesso banali che diventano la spia di condizioni, di situazioni anche di grande malessere diffuse, tali da spiegare anche i comportamenti elettorali. E il libro si conclude da dove oggi siamo partiti, cioè dal funzionamento delle istituzioni basate su regole che, scrive Costa, sono praticamente scolpite nella pietra, una solidità alla quale però fa da contraltare la periodica revisione dei distretti elettorali, che cambia spesso drasticamente la geografia del voto perseguendo interessi molto immediati e specifici dei singoli partiti. E poi troveremo tanti altri fenomeni, per esempio il peso del denaro nelle elezioni e altri, che fanno concludere l'autore con una considerazione sulla tenuta dell'originario progetto statunitense, di cui adesso parliamo con lo stesso. Buonasera Francesco Costa. Buonasera. Francesco Costa, lei, come dicevo prima nella presentazione, inizia il suo libro parlando della diffusione degli antidolorifici e del nesso fra questo fenomeno, la diffusione delle droghe e perfino il voto a Trump. Che nesso c'è fra questi tre fenomeni? Dunque, sono farmaci antidolorifici ben precisi, sono quelli a base di oppiacei, esistono anche in Italia naturalmente, dove vengono prescritti però con molta attenzione dai medici, mentre invece negli Stati Uniti hanno avuto dagli anni 90-2000 in poi una diffusione larghissima, vastissima, per come è fatto un po' il sistema sanitario americano e l'industria farmaceutica. Sono farmaci che danno dipendenza, che hanno creato una vera piaga sociale. Tenga conto che soltanto nel 2017 sono morti per overdose da oppiacei, soprattutto farmaci, più persone che quelle uccise da armi da fuoco, da incidenti stradali, un numero veramente alto. Studi hanno riscontrato che c'è una correlazione, che non vuol dire un nesso di causa ed effetto, ma una correlazione tra i luoghi più colpiti da questa piaga e quelli che più nel 2016 hanno votato per il Partito Repubblicano e per Trump rispetto a quanto avevano fatto nel 2012. È come se Trump fosse andato molto bene nei posti dell'America messi molto peggio, e questo effettivamente qualcosa ci dice sulla situazione politica attuale. Un altro aspetto che lei tocca è una caratteristica leggendaria dello spirito americano, e cioè la diffidenza per lo Stato. Lo collega questo sentimento anche al fenomeno della diffusione delle armi, al quale dedica un capitolo. Ecco, questa diffidenza nei confronti dello Stato, del potere, è ancora molto diffuso. Lei qui per esempio cita il caso dell'attacco ai Davidiani, l'attacco contro i quali fu letto anche come una manifestazione appunto della prepotenza dello Stato. È così forte questa diffidenza ancora? Sì, è ancora molto forte, soprattutto tra i conservatori, che comunque vedono nello Stato, nel governo federale, quello di Washington, un'autorità prepotente che tende a farsi da fare degli altri. Teniamo conto anche che è un paese molto grande, un paese che in termini di superficie è grande quasi quanto la Cina, e quindi quello è un governo che in molti posti dell'America, soprattutto nell'Ovest, che non a caso si è definito lungo Far West, è visto come molto lontano. Ma è una sensazione che esiste ancora anche tra i progressisti, seppure in modo diverso. Da una parte chiedono per esempio un sistema sanitario più simile a quelli europei, e quindi con un ruolo del settore pubblico, dello Stato più forte. Dall'altra parte però, pensiamo alla California, la patria dei democratici oggi per eccellenza, le innovazioni tecnologiche che arrivano da lì sono spesso delle innovazioni che distruggono il contesto legislativo precedente, dai social network a Uber, per dirne un'altra che è proprio esemplare di come anche la sinistra, anche a sinistra, si vede a volte nello Stato un soggetto che tende a frenare, a mettere dei paletti, a opprimere le vite delle persone. La disruption non vale soltanto per l'intervento dello Stato, ma anche per le vecchie leggi. Esattamente, è uno dei motivi per cui poi gli americani hanno anche questo sistema sociale che da una parte fornisce grandi opportunità, ma dall'altra fornisce grandissimi rischi. Non sei obbligato a pagare una assicurazione sanitaria se non vuoi, cose come da noi, non so, il TFR, l'idea che lo Stato, l'azienda si prenda un pezzo del tuo stipendio per te, per dartelo poi dopo, è considerato inaccettabile. Ci sono posti come il Texas, il Nevada, in cui basta avere un pezzo di terra per costruire di fatto dove vuoi, come vuoi, senza chiedere permessi. E ripeto, questo fornisce grandi opportunità in termini di crescita economica e anche enormi rischi. Gli incendi in California, che vediamo susseguirsi ogni estate, sono legati anche a uno sfruttamento del territorio abbastanza incontrollato. E fermiamoci a questa stella degli Stati Uniti, la California, forse una delle stelle più sfavillanti. Quanto è rappresentativa oggi la California dell'America, e che cosa c'è dietro le luci e la moda della California? È un posto che forse come nessun altro al mondo influenza la nostra cultura e ci convince di essere l'America. Se pensiamo da una parte all'industria del cinema, di Hollywood, delle serie TV, dall'altra tutta la parte tecnologica. Prima parlavamo dei social network, ma dal motore di ricerca che usiamo ogni giorno, da chi progetta i nostri dispositivi, viene quasi tutto dalla California. E non è però tanto rappresentativa per l'America nel suo complesso. La California è un posto che ha per esempio un tasso di crescita economica, specialmente certe parti della California, paragonabile a quelle della Cina, ha da sola il PIL dell'Arabia Saudita. Secondo me è rappresentativa di quello che potrebbe essere il futuro dell'America, soprattutto sul piano demografico. È uno stato per esempio molto diverso dal punto di vista etnico, dove presto non sarà più il caso di parlare di minoranze etniche perché i non bianchi saranno la maggioranza relativa. Però ecco, è uno stato che dal punto di vista economico, sociale e culturale è molto diverso da quella che poi a volte viene definita la vera America. Non lo è anche California vera America, ma in gran maggioranza gli americani vivono in condizioni e in luoghi che non somigliano affatto né a San Francisco né a Los Angeles. Parlando della politica, lei a un certo punto scrive che la politica negli Stati Uniti è dominata dalla macchina dell'indignazione perpetua di destra e di sinistra, che sta avendo effetti tossici nelle vite delle persone e delle loro comunità. E che cosa rappresenta questo fenomeno? Ed è solo americano o è più grave in America? Rappresenta il fatto che in un'era in cui si combatte, peraltro in questo senso politici e media e anche aziende, senza grandi differenze, per l'attenzione delle persone, per stimolare le persone in qualche modo, sia giornali, testate giornalistiche, naturalmente non tutte, ma alcune particolarmente influenti, pensiamo a Fox News negli Stati Uniti, ma se vogliamo dall'altra parte anche quello che fa MSNBC, sia i politici, non tutti, ma alcuni naturalmente molto più di altri, utilizzano questa macchina da indignazione permanente per catturare attenzioni, consensi, nel caso dei giornali e delle testate a volte ricavi, senza contare che tutto quello che orbita intorno alla monetizzazione delle notizie false, dell'aggressività verbale, dell'allarmismo che avviene su internet. Questo crea tensioni sociali fortissime che più ogni tanto emergono in certi episodi che ci sembrano anche sproporzionati, ma perché sono frutto di tensioni che hanno montato nel corso del tempo. Negli Stati Uniti ci sono molti che raccontano di famiglie in cui i conflitti per questioni politiche si sono molto radicalizzati nel corso degli anni, e io credo che a chiunque questa situazione torni in qualche modo familiare, perché non è qualcosa che sta avvenendo soltanto in America. La crescita abnorme dell'aggressività in politica, monetizzata o sfruttata a scopo di consenso da vari attori della nostra società. Ma allora lei che conclusioni trae? La presidenza Trump è atipica rispetto a questa America o in qualche misura è stata favorita dall'emergere di questi sentimenti? La presidenza Trump è una conseguenza di questi cambiamenti, di queste svolte. Sono crisi aperte a volte anche da 20 anni, il motivo per cui io ho deciso di cominciare a indagarle meglio, perché come tanti giornalisti, ma non solo, sono stato sorpreso da quella vittoria di Trump. Mi sono accorto e ho capito che se sai solo di politica poi in realtà non capisci bene nemmeno la politica, e quindi cercando di scavare nella cultura, nella società americana, ho trovato quello che poi ha originato, secondo me, la vittoria di Trump, che è una vittoria atipica, naturalmente, ma perché è frutto di un momento particolare che stanno attraversando gli Stati Uniti, non da ieri né dall'altro ieri, ma da almeno 15 anni. La presidenza Trump è stato il punto di arrivo di queste crisi. E questo momento particolare, lei si pone la domanda alla fine, rappresenta un'eclisse rispetto al progetto originario degli Stati Uniti oppure sarà la nuova norma? È una domanda aperta, non credo che sarà una domanda a cui avremo risposta alle elezioni del 2020, nel senso che Trump potrebbe rivincerle e questo secondo me non risolverebbe del tutto la questione. È una domanda che andrà a incontrare la sua risposta lungo un arco temporale più ampio, però è questa la domanda. Queste crisi rappresentano in qualche modo una deviazione, se non un deragliamento dell'America rispetto al suo progetto originario che nel libro cerco di raccontare. Potrebbe essere una deviazione definitiva in qualche modo o a lungo termine, che cambia l'America e lo fa diventare, quello che nel libro cerco di dire, un paese un po' più normale, perdendo i suoi tratti eccezionali del recente passato, oppure no. Gli americani sono sempre stati molto bravi sia a crearsi dei problemi ma anche a saperseli risolvere con ambizione e con spregiudicatezza, e questo è quello che io sono curioso di vedere dell'America nei prossimi 5-10 anni. Grazie a Francesco Costa, autore di Questa è l'America. Buona serata. Grazie a voi, buonasera. E a questo punto ci interrompiamo per un attimo e ci risentiamo fra pochi istanti. La prima scelta importante è quella delle superiori, poi università o ITS. E in un mondo sempre più a portata di mano, studiare in Italia o all'estero. Sono Maria Piera Ceci, ogni giovedì sul sito di Radio 24 troverete un nuovo podcast di Verso il futuro e oltre, che vi aiuterà a districarvi in un'offerta formativa sempre più ricca, perché ogni ragazzo e ragazza ha il diritto di trovare la sua strada. Nel mese di febbraio parliamo di studio all'estero. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Sulla presidenza Trump vi segnalo un'analisi molto critica e puntigliosa, quella di due giornalisti americani, entrambi lavorano al Washington Post. Il primo è corrispondente dalla Casa Bianca, Philip Rucker, e la sua collega Carol Leonig. Entrambi hanno vinto il premio Pulitzer e hanno pubblicato Una presidenza come nessun'altra, come Donald Trump sta mettendo in crisi l'America. È pubblicato da Mondadori, 516 pagine, 22 euro, ed è tradotto da Teresa Albanese, Sara Crimi e Laura Tasso. Nel solco del miglior giornalismo investigativo americano, gli autori hanno intervistato per centinaia di ore funzionari dell'amministrazione, amici di Trump, consulenti e testimoni vari delle vicende che qui vengono ricostruite. Obiettivo del libro, infatti, è cercare di presentare un Trump senza filtri, come scrivono gli autori, per mostrarlo in azione anziché dire ai lettori cosa pensare di lui. E naturalmente il libro si conclude con la cronaca e le prospettive dell'impeachment. Prima, naturalmente, i due autori analizzano gli episodi principali della presidenza Trump e il suo stile, che essi definiscono fuori controllo, uno stile che induce il presidente a uscite spesso imprevedibili, improvvisate, e che fanno condividere a molti il timore che non sappia bene che cosa stia facendo. E a proposito dell'impeachment, gli autori scrivono che ad autunno inoltrato il dilemma che il Congresso e il paese intero doveva affrontare non era se Trump avesse fatto qualcosa di male. I fatti dimostravano senza ombra di dubbio che c'era stato un do-ut des con l'Ucraina e un piano della Casa Bianca per insabbiarlo. La domanda era: chi avrebbe dovuto applicare la Costituzione? E naturalmente gli autori sperano che qualche repubblicano voti a favore dell'impeachment e quindi renda possibile il giudizio di Trump per poter cambiare, scrivono, il destino della storia. Comunque vadano a finire le elezioni, il quadro politico degli Stati Uniti è molto cambiato. Per la verità non è cambiato solo lì, ma certamente il significato del cambiamento americano è molto profondo. Il populismo ha attecchito anche lì e i liberal, cioè la sinistra, sono divisi se abbracciare una linea identitaria molto più spostata a sinistra, di questa linea sono portavoci i senatori Warren e Sanders, o seguire una linea centrista e più rassicurante, di cui è espressione il vicepresidente Biden, che si è candidato sempre per i democratici, l'ex vicepresidente. Un libro breve e succoso per capire le convulsioni della sinistra, e per la verità non solo quella americana, è quello di un brillante politologo, Mark Lilla, che è un politologo americano appunto che insegna alla Columbia University, che ha scritto Il naufragio della ragione, reazione politica e nostalgia moderna, è pubblicato da Marsilio, 144 pagine, 16 euro, tradotto da Stefano Travagli e Anita Taroni. Lilla è uno studioso liberal, anche lui quindi progressista, di sinistra, che ha fatto infuriare i suoi sodali perché ne ha denunciato in opere precedenti una pericolosa deriva illustrata dalla difesa di ogni singola, specifica, puntualissima identità a scapito degli interessi di una visione comune e nazionale. In questo libro Lilla esamina il pensiero reazionario attraverso alcune figure, di cui una particolarmente nota anche in Italia, quella di Leo Strauss. I reazionari, spiega Lilla, non sono conservatori, lo scrive lui stesso, sono a modo loro radicali quanto i rivoluzionari, altrettanto prigionieri di fantasticherie storiche. E soprattutto, aggiunge Lilla, i reazionari non sono ignoranti, è un pregiudizio ritenere che il rivoluzionario pensa mentre il reazionario si limita a reagire. Sono soprattutto espressione del forte potere psicologico esercitato dalla nostalgia politica, a partire dalla tragicomica impresa di Don Chisciotte, scrive Lilla, di far rivivere l'età dell'oro. La nostalgia politica è il riflesso di una specie di pensiero magico riguardo alla storia. Insomma, un libro decisamente controcorrente, capace di letture sorprendenti, per esempio quella di San Paolo e del tentativo della sinistra di impossessarsene, o sul pensiero islamico. Le elezioni di Trump e altre dopo quella americana sono state dominate dalle nuove tecniche comunicative basate sui social e sui messaggi spesso falsi o esasperati o violenti, organizzati da potenze straniere, create e diffusi dagli algoritmi e dall'intelligenza artificiale che elabora le informazioni raccolte su di noi. È una prospettiva inquietante questa, su cui ormai siamo tutti immersi, che rischia di renderci schiavi. E le nuove forme di comunicazione infatti non si accontentano più di farci conoscere prodotti e servizi che ci potrebbero piacere, ma hanno raggiunto un'autentica capacità predittiva che condiziona in modo assai più penetrante di prima e determinante la nostra stessa volontà. Questo fenomeno è analiticamente descritto ed efficacemente criticato in un libro che ha fatto molto discutere negli Stati Uniti, che ora viene tradotto in Italia, l'autrice Shoshana Zaboff. Il libro si intitola Il capitalismo della sorveglianza, il futuro dell'umanità nell'era dei nuovi poteri, è pubblicato da Luis, 622 pagine, 25 euro, tradotto da Paolo Bassotti. Un nuovo capitalismo, dunque, quello che dobbiamo abituarci a conoscere, che sovverte quello tradizionale. In quello tradizionale il modello era il fatto che il mercato correggeva la mancanza di informazioni singole, e quindi la mancanza di informazioni attraverso i meccanismi di mercato consentivano a tutti di raggiungere le migliori decisioni. Qui si verifica il fenomeno inverso: ormai si sa tutto, l'ignoranza non c'è più, si sa tutto di noi, ma questo tutto lo sanno in pochi, e i pochi sono i grandi protagonisti dell'economia digitale, che appunto di noi conoscono ogni minimo dettaglio e possono addirittura prevedere le nostre mosse. Questo è la aspetto decisivo, per esempio per elaborare politiche securitarie di controllo che non perseguono più i reati ma sorvegliano tutti per impedire che i reati siano commessi. Zupov denuncia che Google rivela per esempio una nuova capacità di inferire e dedurre i pensieri, le emozioni, le intenzioni, gli interessi di individui e gruppi con un'architettura automatizzata in grado di operare come uno specchio a senso unico, senza riguardo per la consapevolezza, la conoscenza e il consenso dell'utente, garantendosi un accesso privilegiato e segreto ai dati comportamentali. E questa capacità predittiva, aggiunge, sarebbe diventata un vantaggio senza precedenti. E aggiunge l'autrice, l'analisi di questo potenziale di Google può prevedere la tua intenzione di comprare un costoso abito di lana e i suoi dati di localizzazione in tempo reale possono attivare il suggerimento online di un venditore o di un inserzionista abbinato al suo profilo inviato nel momento stesso in cui ti trovi fra tweed e cashmere. Spingi, suggerisci, ammicca, persuadi, rimprovera, seduci. Google vuole essere il copilota della tua stessa vita. Naturalmente non c'è solo Google, le piattaforme sono animate dallo stesso intento di ammassare quanto più dati possibili per orientarci al comportamento che frutteranno poi enormi guadagni per quelle piattaforme. Questo potere, la Zupov lo definisce, strumentalizzante, ha il compito di strutturare e strumentalizzare il comportamento al fine di modificarlo, predirlo, monetizzarlo e controllarlo. Ed è diverso dal tradizionale potere totalitario perché, aggiunge l'autrice, ai capitalisti della sorveglianza non interessano lo sterminio, il cambiamento delle nostre anime. Certo, da molti punti di vista i loro obiettivi sono ambiziosi come quelli del leader totalitaristi, ma sono anche ben diversi. Dobbiamo dare un nome del tutto nuovo a questa strana forma di potere senza precedenti per organizzare una resistenza efficace e garantirci il potere di crearci da soli il nostro futuro. E a questa prospettiva, quella appunto di resistere, Zuboff dedica l'ultima parte del libro invocando nuove norme che non potranno però prescindere dalla consapevolezza che ciascuno di noi deve acquisire delle pressioni alle quali è sottoposto attraverso queste piattaforme e i dati che se raccolgono. Un efficace reportage con tratti autobiografici su una particolare applicazione del capitalismo della sorveglianza è il libro di una giornalista francese esperta di tecnologie, Judith Doportel, che ha scritto L'amore ai tempi di Tinder, in viaggio tra passioni cieche e algoritmi che ci vedono benissimo. È pubblicato da Fabio Editori, 192 pagine, 15 euro, tradotto da Vittoria De Stefani. Tinder è l'applicazione per favorire gli incontri tra gli utenti ed è stata scrupolosamente studiata dall'autrice, che ne è stata a sua volta utente. Lei è una giornalista che a un certo punto si trasferisce a Berlino per studiare direttamente da lì come freelancer, come funzioni questa piattaforma e per fare scoperte molto interessanti. Lei stessa ricorda la professoressa Shoshana Zuboff di cui abbiamo appena parlato, infatti scrive la Duportel citando la Zuboff: ogni volta che ci connettiamo a internet partecipiamo in modo inconsapevole senza dare il nostro consenso a esperienze grazie alle quali veniamo inquadrati meglio. È così che possono venderci prodotti nel modo più efficace. Tutto ciò che facciamo online viene spiato, tracciato, registrato e poi ci viene proposto di comprare proprio ciò che risponde perfettamente ai nostri bisogni, al nostro stato emotivo. È un'applicazione molto efficace di questa tendenza. La Duportel racconta delle sue difficoltà, per esempio, a entrare, a conoscere i dati che la piattaforma ha raccolto su di lei, che appunto di Tinder è stata utente, e soprattutto le difficoltà per capire come questi dati vengano utilizzati e se sia vero, e lo è, che Tinder elabori attraverso questi dati un punteggio sugli utenti per orientarli a questo o a quell'incontro. Citando una sociologa, Eva Illutz, la Duportel nota che i siti e le app di dating hanno creato un mercato di affari dell'intimità. Gli utenti sono in competizione tra loro per ottenere incontri e trasformarsi loro stessi in merce, e in questo scambio le donne eterosessuali che cercano una storia occupano la posizione più debole. E conclude con una nota inquietante riassunta nelle righe che vi propongo. Accedendo ai miei like su Facebook e alla mia corrispondenza, Tinder mi conosce meglio dei miei migliori amici, dei miei genitori, del mio psicologo, se ne avessi uno, e persino di me. Utilizzando i miei dati personali per determinare chi posso vedere sull'applicazione, Tinder decide per me chi posso incontrare, raggiungere e amare. E questo è un potere immenso su di me, sulla mia vita, sul mio corpo. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Andrea Roccabelli, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, libro@radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona serata e vi do appuntamento domenica prossima.